Minute Conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Obama is out there saying that Fox News is talk radio. I am living rent-free in this guy's head. Fox News is talk radio. If that's true, MSNBC is pornography, and Obama likes MSNBC. CNN is child porn. Ecco, questo è il modo in cui si chiude una settimana, insomma, in cui ci si appropinqua al weekend di una settimana nel quale accuse e controaccuse mediatiche sono state il pane quotidiano e anche un certo trash. Questa era la voce di Rush Limbaugh, il più popolare, amato, odiato conduttore radiofonico d'America, dichiarate simpatie conservatrici di destra, che spiega ai suoi milioni di seguaci che se Barack Obama dice che Fox News è una talk radio, ovvero non è un vero canale di notizie, ma è piuttosto un posto dove si fanno dibattiti pilotati, allora se è così, allora anche NBC News diventa un canale pornografico e CNN, tanto per metterci un carico da 10, diventa un posto dove si fa pedofilia. Insomma, lo scontro si sta colorando di tinte molto forti, la sensazione è che non si smetterà tanto presto. La messa in discussione di una modalità di fare informazione che nel frattempo aveva trovato spazio, stava mettendo radici in America, ovvero quello condotto da Fox News, che ripetiamo, perché questo va sostenuto e spiegato, è in crescente ascesa di successo, di ascolti, mentre lottano molto di più per i propri share gli altri canali che abbiamo nominato. Se è così, c'è dietro un progetto commerciale prima che un progetto politico, ma le due cose poi finiranno per saldarsi. La rottura del politicamente corretto da parte della Casa Bianca, ovvero l'aperta denuncia che tutto questo non è corretto, non è deontologicamente accettabile e che si stanno usando i media per come strumenti diversi da quelli che si pensava che fossero secondo il costume americano, sta al tempo stesso avendo degli effetti, come dire, in alto, ovvero nella riflessione, no, sulle modificazioni dei media nel contemporaneo, ma anche in basso, ovvero poi in come tutto ciò prende forma e si manifesta, nella fattispecie attraverso le osservazioni di Rush Limbaugh, a cui fanno eco però con un versante, un pandan molto più sociologico, ad esempio le acute analisi che i settimanali stanno dedicando all'altro caso mediatico della settimana, quello con cui gli americani si sono divertiti a svegliarsi la mattina, ovvero la storia del ragazzo sul pallone, che adesso viene incluso in una analisi di Time nel nuovo lessico dei cliché, perché alla fine dietro c'era un reality show e tutto ciò finisce in un reality show, tra virgolette, questa frasetta tra virgolette, secondo l'articolista di Time è comparabile a quando un tempo si diceva: ma quel vicino, che magari si era macchiato di chissà quale infame crimine, era una persona così tranquilla. Insomma, cambiano i modi di parlare, i modi di osservare ciò che ci circonda, e tanto vale aggiornare, no? Aggiornare anche i nostri parametri. Quindi quello che abbiamo possibilità di fare in queste settimane è capire, per l'appunto, come le televisioni americane, ma anche forse quelle italiane, no? Che si propongono di informare prima di tutto, lo fanno realmente, dove invece questa informazione diventa qualcos'altro, che non è detto sia qualcosa di buono o di cattivo, ma semplicemente qualcosa di diverso. E la Casa Bianca sta provando a fare tutto ciò in una settimana comunque non fortunata. Il Daily Telegraph, il quotidiano britannico, osserva che questa settimana segna un record negativo per Obama, ovvero la caduta più pesante di gradimento per un presidente nella storia delle presidenze americane, o almeno da quando vengono monitorate questo tipo di dati. Dal 78% si è caduti al 53% in un tempo assai breve, di pochi mesi, una perdita di 24 punti che non ha rivali in passato. Bisogna anche osservare a margine che come dire, solo chi sale molto in alto poi casca facendo un gran buco per terra, e nel caso di Obama i dati di partenza erano eccellenti e le premesse per il il futuro restano comunque interessanti, ma il trash però appunto arriva anche dentro la Casa Bianca, se è vero che ieri, come registra De Politico, un comico nel suo numero in un teatro di Washington, al Warner Theater, si è permesso di raccontare, affermando di dire la verità, che pochi giorni prima aveva inalato cocaina proprio dentro la Casa Bianca, in una stanza vicino a dove si trovava il presidente Obama, e che era stato un brivido, no? Quella terribile trasgressione, farlo proprio nelle sacre stanze, che non aveva resistito alla tentazione, aveva addirittura mandato dei messaggini agli amici, e adesso cerca di guadagnarci sopra anche qualcosa facendoci una scenetta comica. Sinceramente ci sembra una scenetta tragica. Nella fattispecie il comico in questione si chiama David Cross, per quanto mi riguarda evitiamolo se possibile. E allora solleviamoci un momento andando a interessarci qualcosa di un po' più saggio, di un po' più qualitativamente ragguardevole, come il nuovo libro di Philip Roth, il più grande romanziere vivente, su questo non c'è più dubbio, d'America. Gli altri purtroppo uno via l'altro sono tutti scomparsi anche in tempi recenti, come John Updike nella fattispecie. Un altro romanzo di Philip Roth arriva in libreria, si chiama The Humbling, e per presentare questo strano libro Philip Roth ha accettato di fare un'intervista, cosa che fa raramente, con una delle regine dell'informazione americana, ovvero Tina Brown, la donna che si era inventata a suo tempo Vanity Fair e che adesso ha un sito di informazione trasversale molto interessante che si chiama The Daily Beast. Qualche estratto di questa intervista. The last 12 years has seen the most incredible creative surge from you. American Pastoral, The Plot Against America, The Human Stain. And now you've written your Qui c'è Tanner Brown che in apertura dice, ma fondamentalmente dice, ma come fai? Come fai? Noi qui non riusciamo a leggere i tuoi libri, che tu li hai scritti. In un certo senso è più facile per te scrivere che per noi leggere. Come fai? A series of books coming rather regularly out of me. But if you, I work most days. E la risposta di Philip Roth è molto semplice e saggia. Dice, ma guarda, fondamentalmente io sono un uomo molto regolare, un po' noioso, che lavora tanto. Che vuoi? Per me scrivere una pagina al giorno da 40 anni a questa parte non è certo una fatica. Se fai uno per 365, esce 365, che sono le pagine di un libro molto corposo, che io più o meno una volta l'anno spedisco tranquillamente in libreria. Nella fattispecie il libro in questione che sta uscendo in queste ore è una storia particolare, si chiama The Humbling, è la storia di un attore che improvvisamente, come dice la prima riga del romanzo, perde la sua magia, non sa più recitare. I began with a line which is the first line of the book. He'd lost his magic. I was thinking of an actor, è una delle tipiche riflessioni queste di Philip Roth, no? Perdere quella adesione alle certezze che ci hanno garantito una sopravvivenza decente. Lui racconta che questa storia l'ha sentita dire, è una storia che ha dei riflessi nel reale, che si è poi divertito a rimaneggiare, no? Per vedere che cosa succede quando un uomo, anche un uomo di una certa età, con delle appunto certezze ormai acclarate, se ne trova improvvisamente sprovvisto. Poi naturalmente Tina Brown gli ha fatto la domanda inevitabile, gli ha chiesto che cosa ne pensa di Obama, sia come presidente ma soprattutto nella fattispecie come scrittore. How are you feeling about the state of America right now? Do I have to answer that question? Yes. You can try, you can avoid it. You know, I'm an Obama supporter. And, Roth risponde di essere stato un sostenitore della prima ora di Obama, soprattutto come visione politica e soprattutto dal momento in cui questo uomo aveva davanti, volente o nolente, una montagna da scalare, dei grandi problemi da risolvere. Però poi fa delle osservazioni interessanti di Obama come scrittore. By this guy who was running for president. But I found it well done and very persuasive. And, dice che anche nel, soprattutto nel suo primo libro, I sogni di mio padre, la sua scrittura è incisiva, riesce a persuadere, riesce a convincere e a coinvolgere l'ascoltatore, il lettore nella fattispecie. Noi che possiamo dire? Ricevere un giudizio del genere, tanto più se si è dei dilettanti, no? Obama fa lo scrittore part time da parte di Philip Roth, è sicuramente un complimento straordinario. she sang a good song. I heard she had a style, and so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly. Buongiorno America. When I was a little girl, I'd spend hours just dreaming that someday I would go to strange, faraway places. Come forse ormai saprete, il venerdì ci interessiamo soprattutto dello sterminato mondo dello showbiz, no? Del mondo della produzione culturale spettacolare d'America, del libro di Philip Roth. Vi abbiamo detto, vi ricordiamo ancora il titolo, The Humbling. In Italia sta appena uscendo il quello che ormai è il penultimo, Indignazione, tra l'altro leggetelo, è bellissimo. Invece al cinema in America nel weekend, come sempre, sono parecchie le novità, una delle quali è rappresentata dal trailer che sentite in sottofondo. Un grande cast, Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor, per un film che è stato però già stato, è stato fatto già regolarmente a pezzi, a fettine dalla critica americana, la biografia di Amelia Earhart, una grande aviatrice, la prima donna a attraversare l'Atlantico nel 28, morta poi nel 39 nel tentativo di girare il mondo con il suo aeroplanino, anzi nel 37, scusate, a 39 anni. Hilary Swank, vi dicevo, un film descritto come molto estetizzante, inerte, a tratti veramente noioso, avvolto in una insopportabile luce dorata, nonostante la regia curata di Meera Nair, la regista indiana che ben conoscete. Questi sono film biopic, li chiamano gli americani, film biografici che spesso e volentieri non incontrano il gusto della critica americana, soprattutto dei grandi quotidiani. Va invece meglio a un altro oggetto volante identificato, questo. The world's top scientist is building. Si vola sempre, ma siamo nei cartoni animati. Nella fattispecie questo è un vecchio personaggio che torna a volare, si chiama Astro Man, nasce in Giappone come manga nel 1951, poi diventa un personaggio televisivo della televisione di quel tempo, del pieno XX secolo. Adesso a colori pastello invece diventa un cartone animato molto divertente, curato da gente in gamba che ne sa del settore, gli stessi che hanno messo la firma su prodotti come Wallace e Gromit o Giù per il tubo, trattato con molto rispetto anche dal recensore di Time, che dice: una dolce fantascienza per il bambino che dorme dentro di voi. A proposito di oggetti volanti poco identificati, soprattutto poco lucidi, una notizia dalle cronache della televisione americana di questa mattina è la incredibile storia, vedrete, arriverà anche sui nostri telegiornali, dell'aereo che ha sbagliato fermata, ha sbagliato strada, ha sbagliato corridoio aereo, ha sbagliato tutto. In sostanza un aereo di linea della Northwest che doveva atterrare a Minneapolis St. Paul e semplicemente non l'ha fatto, è andato dritto per 150 km allarmando tutti, tra l'altro con la radio chiusa, senza la possibilità di contattarla, perso il contatto. Si stavano per alzare i caccia, quelli che vanno a vedere con gli occhi dei piloti che cosa succedeva. Non succedeva niente, succedeva semplicemente che il computer aveva sfasato la rotta. I piloti hanno detto che si stavano annoiando, che è una spiegazione agghiacciante per chiunque prenda gli aerei. Sono stati sospesi. Adesso, come al solito, si comincia a riflettere sul fatto: ma siamo veramente sicuri di essere sicuri lassù tra le nuvole? Well, I think this is something that the president wants to see right now. I think the administration had been concerned Allora, questa vocetta invece è così che è calda, intensa e sbrigativa, abbiamo inizialmente imparato a conoscerla come quella del portavoce di Bill Clinton. Si chiama George Stephanopoulos, lasciò la Casa Bianca per intraprendere una carriera televisiva alla ABC, carriera televisiva che sta andando molto bene, ma adesso i media americani vibrano, no, di interesse, perché sta veramente per incontrare la grande occasione della sua vita. In sostanza, George Stephanopoulos comincerà a condurre Buongiorno America, ma non quello che facciamo noi qui tutti i giorni, perché secondo me lui vede le cose più in grande, ma quello vero, Buongiorno America della ABC, ovvero praticamente il programma più amato la mattina dagli americani. Prenderà probabilmente tra un paio di mesi il posto di Diane Sawyer, che è la gran dama della televisione americana, anche se ha dei concorrenti che deve ancora battere, ma i ben informati dicono che sono deboli, e quindi Stephanopoulos è destinato a diventare davvero il re della mattina televisiva americana. Infine una rapida segnalazione, sempre in arrivo dai giornali americani, dalle pagine di cultura e spettacolo, soprattutto cultura quando si parla di Keith Jarrett, perché tutti si sono mobilitati per segnalare l'uscita del nuovo album, triplo addirittura, di Keith Jarrett, che torna a suonare il piano solo, in perfetta solitudine, due concerti a Londra e a Parigi dello scorso anno. Al centro di questo album, che si chiama Testament, di cui ascoltiamo almeno qualche secondo. I partiti di Anni Moretti, no, di Caro Diario, sanno di che si tratta. I partiti dei concerti Colonia ancora sognano con gli occhi. Il weekend è il momento giusto per andare a cercare Jarrett nei negozi. Si chiama Testament questo album, che sicuramente farà fans vecchi e nuovi per il più grande pianista del jazz, ma direi del pianismo contemporaneo in genere. Era l'ultima notizia qua da Buongiorno America, dove Stefano Pistolini vi saluta insieme a Gloria Guerrera in redazione, la regia di Valerio Rocchetti a Roma, Fabio Cantadori a Milano. Vi ricordo sempre la mail, che è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook redazione Jefferson 3. Buon weekend a tutti. Ci sentiamo lunedì, state bene qui su Radio 24.